Eccomi qua, no, mi stavo dicendo una cosa a mamma. Ha dovuto sentire. Magappa. Uia, su Maria, ga. Ci ho comprato il lucchetto. È la moto di quelli in brocca. Come si chiama? Brocca disco. A Cittamercato. Oh, ieri dovevo portare la moto a fare la revisione, non c'era verso di aprirlo questo lucchetto. Papà. Non verrà nessuno. Sì, ma tornavano. Quello di giù. Siamo stati un quarto d'ora cercando di aprirlo, girava la fane, girava la serratura, ma non scattava. Abbiamo provato, poi alla fine ho preso una di quelle pinzette a punta, ho preso il perno che fa dentro e l'ho forzato con la pinza, alla fine ha perso. Il meccanico mi ha detto di non metterne più perché sono difettosi, sempre questi lucchetti a volte non si aprono, tocca fare un casino, rovini anche il disco molte volte facendo questi lavori. Dice guarda, non le mettere tanto, questa moto qua non la puoi rubare, se c'è un sistema di allarme che non mette in moto se non c'ha la chiave sua cara per forza. Gaffa, gaffa. Aspetta un attimo già che devo cambiare il baracchino un attimo. E poi mi ha detto che mi ha fatto vedere la fiscia della notizia, un sistema per rubare le moto col blocca disco. Tu. Già a me. Aspetta, devo fare una prova. A vedere. Ola. Aspetta, a vedere. Ecco, la moto ha trovato Samuele. Ha telefonato subito a Samuele, sono andati ieri notte col padre alle Bisighiddu. Samuele era con un cagnotto a faccia e dopo lo conosceva Puglia, lo sai, era stato in grefa con lui parecchio tempo fa. L'avrei picchiato forte, l'avrei picchiato, brutto bastardo. Poi se n'è scappato, ha buttato la moto in terra e se n'è scappato. Non sono riusciti più a prendere, allora ha chiamato 112. Gli ha detto nome e cognome perché tanto lo conosceva. Allora lui c'è. Paura di attaccare un capo. Adesso Maria! Mi ha rovinato tutta la moto, gli ha rovinato la messa in moto, nel senso che la chiave per aprirla gli hanno inserito, ho detto, una vita autofilettante col trappolo elettrico, l'hanno fatto col cacciavite elettrico, l'hanno fatto entrare dentro la serratura e poi con una pinza hanno tirato e gli hanno sfasciato la serratura per aprirla. Questo animale, non devi dire, la verità, se mi paghi tutto perché sennò ti picchio forte, brutto animale. Come li ha visti scendendo dalla macchina, ha buttato la moto in terra ed è scappato, deve essere che lo sapeva che era la sua, se no non l'aveva fatto così. Lei aveva colato le gambe. E vabbè, comunque l'ha recuperata, adesso se l'ha messa in garage, la fa mettere a posto, se la doveva vedere il giorno dopo lo sai. Giulia, che gente. Ogni sfiga che se glielo prima le hanno rubato. Ma c'è la macchina? Sì, ma c'è un po' che ce l'ha sì la macchina, se l'ha comprata. La patente è stata posta? Sì, sì, si è preso la patente e poi si è comprato la macchina. Ha preso la seconda mano, una bellina, nuova. È una Clio azzurrina metallizzata. Cappa. Siamo già andati a letto. Beh, infatti, per l'inizio almeno, era di un tipo di Castelsardo, nuova la macchina. nuova difficile, già perfetta. Insomma, comunque per l'inizio già gli va bene. È tenuta bene anche come la fai, deve essere anche chi mignolo. Sicuramente. Ha fatto controllare l'olio, tutto quanto, gli ha fatto fare il tagliando nuovo. Perché magari, perché questo qui era fermo come lavoro e ha fermato anche la macchina, non c'era l'assicurazione, infatti per comprarsi era dovuto fare l'assicurazione. Certamente che sì. Ah, la verità non è che mi piacciono molto le macchine Renault, per un motivo, perché sono troppo leggere davanti. Piaceva la R4, macchina vecchi tempi. La R4 mi piaceva. Ma no come estetica, come tipo di macchina, perché era molleggiata, insomma, era una macchina da giovane. Certo. No, sai cos'è il motivo? Tu vai a toccare con la macchina. Non è fiancata, mica c'è la lamiera, insomma. Ma poi sono delle macchine che basta toccarle e si sciolgono. Ho visto retrovisione. E allora? So che alcune parti le hanno il retrovisione, ma tipo quelle le parti di dietro. No, proprio le fianchette. Non toccano con la macchina. Comunque la retrovisione si può aggiustare meglio della lamiera, lo sai, perché è facile anche da fare, io la so lavorare. Vabbè. Comunque, le basta perché tu prendi un colpo e si distruggono subito perché sono fatte così. Vabbè, invece si trovano interi pure, no? Sì, si trovano. Ma quando andai a comparare in testa la Renault, avevo dopo c'è un foglio. Comunque la R4 per dire era una macchina facilissima da lavorarci sul motore, era tutto libero per lavorarci, il motore era piccolo. Ah, non mi dire balle già. Già lo so. Chi è che dice balle avanti? Ah, non mi dire balle già. Gara, non sto dicendo di balle. La R4 tu l'hai conosciuta, no? Io non l'ho conosciuta già. So. Beh, forse ce l'avevo anche. Ma chi sei, Giuseppe? E cazzo, chi è? Il demonio. Se manisce dall'oltretomba. Beh già. Dove sei? Oasi. A Carbonazzi. Papà. Cava. Come da queste parti? Sono andato a casa di Antonello per fare una questione, che domani facciamo un altro esperimento, un'antenna fatta da Antonello, proviamo anche quella domani mattina, lo vengo a prendere e facciamo quella modifica, almeno con l'antenna là che c'ho, la distacco. La mando in pensione. La mando in pensione veramente. È una tipo calamapesca, capito? Quella che stai mettendo? Ma un'altra, è un'altra antenna che abbiamo costruito. Ah, cavagala. Come è fatta? È fatta con tipo i cosi, come si chiama? Quelli... gli ombrelloni, capito quella cosa là, quelli dei cosi degli ombrelloni. Con il radiale dell'ombrellone. Ma adesso mi se passo sotto casa tua, se scendi 5 minuti giù te la faccio vedere. Io non sono già colitato, non scendo perché sono già svestito. Non c'è problema, là. La faccio. Volentieri, ma sono già in disabilità. Beh, no, non c'è problema già. Ok. Va bene, dai, chi c'era a ruota già? C'è Antonio Bombolo, grazie Antonio. Ciao Leoncino, non so se mi senti, io non ti sento. Ma arrivi a bomba, Antonio. qua al quadrato, ok? Quanto non mi sente? Appaga, adesso che il tuo rem è troppo alto. Che il tuo rem è troppo alto. Che al quadrato, mezzo. Vabbè, tu non ce la fa arrivarmi perché tu un rem è più di 9. Io ti sto dicendo che lui è al quadrato, mi hai detto che così. Vabbè. Raga, ma se no io già l'ascolto, avanti Giuseppe. Ehi, ah, strano però che non mi ascolti, sono al quadrato e adesso sono qua per girare per il Ponte Nuovo, capito già? 9.5 a me mi arrivo. Beh, macchina sì. No, guarda, ma quindi sono da piazzare questo ombrello, è tipo un ombrello, va? Tipo un ombrello, capito? Comunque... discreta legge, ne ritacco domani, vengo a Frenareccio, le facciamo quel lavoro là e le attacchiamo, ne ritacchiamo col piede che c'è là e le attacchiamo qua e poi provvisorio glielo metto dentro il coso della come si dice, dove c'è le sul tetto, là c'è il buco dove va il palo, lì non ce n'è, dunque gliela infilo lì e gliela fisso, hai capito? Ho capito. A me non devo stare con questi radiali qua, ho questa canna e così a me non. Sicuro non me la compro nuovamente, me la compro e si piazza sul tetto, chiamo la scala aerea e me la faccio piazzare una volta per tutto. Non ti metti un'antenna come si deve, visto che sarà la scala aerea, ti metti un'antenna come si deve, una manto per non rimessi più. Beh, quello che faccio, hai capito, quello che faccio. Beh, piglio una manto oppure una ringo, oppure, vabbè, ma specialmente la manto va quella che c'è tu, capito? E mi hanno detto che la ringo come materiale non serve, dice che si arrugginisce dopo un po' di anni. Oh, non lo so qua, no. È l'unica, è la mantova 5, oppure, hai capito? O la mantova 1 o la mantova 5? La mantova 5. Poi dice che la ringo l'ha provata a quello di Ussi, dopo un anno dice che era già tutta arrugginosa. Allora io... Guarda, ti devo dire la verità già, io la mantova ce l'avevo 5, che l'ho procurata tramite un'altra persona. Il nome? No, e ce l'avevo piantata in campagna, solo che in campagna non riesco, non so dove sia andata più a finire, cosa, o si è rotta, non lo so, guarda. Ce l'avranno buttata, come è caduta dal tetto, perché era piazzata lì con le stampe tutto quanto, ha fatto quel vento forte e mi ha buttata e dunque non ho più cercato, hai capito? E vabbè, non è che così chissà quanto, costa uscito 20, 130 euro. Lo conta già, la mantova 5? Penso sulla 130, no, la 1 o la 5 mi pare che non c'è la grassa. Sai che c'è solo a Sassari, vero? Cosa? La mantova 1 e 5. Allora, ci sono anche... Allora, dove ha fatto la taglia ne avevano 7, mi pare. Ma sta sparendo, sta. Sì, l'ha detto, finito questo e non ne abbiamo più. Sì, e ti sento, Leoncino. Beh, adesso mi senti, sì. Proprio che ti sento. E poi c'era un casino a trovare manto qua, dopo finite quelle. E ti sta arrivando un po' lì. La turbo. Antonio. Antonio. Dimmi, ti sento o non ti sento? Ho detto, come ti sto arrivando? Dammi un controllo. Già, riprendi tu. Ha detto di dammi un controllo, come ti sto arrivando? Si ha detto che non ti senti, Giuseppe. Lo sento, non lo sento, mi Giuseppe. Adesso, guarda. Ti provo adesso. 1-2-3, 1-2-3. Adesso ti sento. Scoppia già, vero. Quanto? colpi. Ecco io. E devi darmi un controllo come sto arrivando, dai. Ragazza, ora ci ha comprendito una cosa, va bene, sono un turco. Ciao Gianni, sono ancora qui. Ciao. Ciao ragazzi, non si può trovare, non si sostituisce tutto. Francesco, non può più sostituire solo questo uncino. No, ma non confondere, non la pinta di sotto, no, la pompa di sopra, quella che premi, la stecchetta con le conservative dell'olio. Ah, ho capito. Non la inauguriamo questa volta. Questa era un'altra che c'avevo lì, un chopper di quelli piccolini, che da voi non è proprio minore minore, no? Sto andando a pulire la moto e ha detto che era la leva lenta lenta, ha inseguito il disco. Sto andando e andando un po' per un attimo. No, adesso non vedo tanto la piccolina. Più giovani che mi segui voi, ne abbiamo fatto 3 o 4 e ne abbiamo dato un po' di da rimandare via mio. Qui si va uno sportello di panda, che mi serve. Sono tutti fatti, o tornano assieme casomai. Sportello di panda, bisogna vedere che panda è, che è la prima serie, o chi sa ultima è. Non hanno capito da un po' via. Ultima serie. La nuova? No, ultima serie di quelle vecchie. Tipo... Sì, che c'è stesso la tipologia della prima ancora, hai capito? Però ho fatto nuovo. Pick up. Sì. Poi l'avevamo presa nuova, avevamo aspettato 3 mesi, mi pare, c'era una sfilza, perché erano le ultime che stavano facendo e abbiamo aspettato 3 mesi per arrivarci, bianca come la volevamo noi. Che cagata guida, come dire? Non è iniezione. Cos'è, 1100? 1900 qualche cosa, è 1000. Va bene, va molto bene, c'è un motorino, siamo andati a Olbia da poco, c'è un motore dopo 10 anni che va, che è un dio. Motore Fire? No, non è Fire, però consuma un bel poco. Fire l'ho avuto sulla Punto io, sulla 1 cioè. E quelle vanno bene, infatti da andare... Cioè, quelle 1 Fire consumava un bel poco. Beh, un bel giorno mi è venuta la brillante idea di cambiare di lui e compro la città a mercato e gli ho grippato i bicchieri. Ma ripagniamo. Io ho comprato Sinti 2000 almeno, così c'era scritto fuori. Invece il mio meccanico che fa le macchine della polizia, tutte queste cose qua, c'è l'Alfa Romeo e usa solo Sinti 2000, metto che quello non era Sinti 2000, nemmeno da lontano. E ha toccato la viscosità, era stato appena cambiato, quindi lui doveva essere viscoso e cose, invece mi ha detto che era troppo liquido. E allora sicuramente ho detto può anche essere, tante volte sai cosa succede, che fanno sciopero, non controllano i filtri, anda così, compreso. Ma dice è poco viscoso, non ha viscosità, per quello ha grippato la macchina. Lui che dice che sono difficili questi motori a grippare, eppure i bicchieri incollati, dice che praticamente ho dovuto sbloccare col CRC e stare più di un'ora con la mano del CRC. Me l'ha sbloccato e ho dovuto cambiare pistoni, fasce, insomma, è tutto rifatto. Una Renault Condor, hai capito? Renault, un pulcino. Ma questa macchina non vuoi essere, con questa se ne ha perso questa cosa qua delle fatiche, quello che quello del ferro, no? Ha fatto danno. 485 euro. Più manodopera di tutto quanto è divenuto quasi 600 euro. I dischi? Ah? I dischi? Ha cambiato fastidio e dischi. Fastidio e dischi. Quasi 600 euro. Vabbè. Purtroppo sono cose che succedono a chi è trascurato con i mesi, che non li fa le manutenzioni che deve fare. E quando me ne tirerò lo zocco dei freni che non andavano bene. Avanti, Anton. Come qua, dove entrate, non c'è un discorso. Principale dove lavora Giuseppe. Dice che ha consumato le pastiglie sino al punto di toccare proprio le pinze dove si inseriscono le pastiglie. Ha detto che praticamente ha regato, dice che ha fatto un casino, 600 euro di lavoro. Che macchina è? Prego. Giusto, quando entra in mano una di chi si sono cazzo. Centinaio di euro ce ne siamo usciti. Te lo so. È tipo furgoncino, è tipo fiorino dovrebbe essere. Ah, visto è. Avagava. Non altro. Quando ha tolto la cosa della Oggia, il disco, proprio gliel'ha spezzato, capito? Gliel'ha spezzato a metà, capito? Ti grido perché non trova quello che deve trovare, cioè la pasta delle pastiglie è fatta in una certa maniera per non rovinare il disco, e dunque se li muore l'uver e l'entra il disco, ma questo te li faccio. Avanti, saluto. Per forza, è fatta forza, i ferroni sono più morbido del disco. Dopo il discorso della fattosità della mescola del ferodo è fatto in modo perché freni sul disco senza surriscaldare. Giustamente hanno la loro usura, ma se tu prendi pure un piatto di bacchigli e non metti il ferodo, lo tu rimani a bollire. Infatti. No, io le ho fatte da poco le pastiglie, me le ho fatte fare proprio via Pirandello, ma non dal meccanico, dal gommista. Faccio fare più freni, anche il diritto, qua. E anche il rischio ho cambiato. La prima volta mi ha fottito pure a me, ma me li ha rigati e se volevo non ne potevo fregare. Sì, non so, anche io, però perché sono andato da San Zumena, si è trattato di anche da una macchina di vera uguale, era accidentata, uguale alla mia, ma si è pigliato tutto canto, si è pigliato tutto nuovo, quando... Devi dare un coso alle riuni. Cosa? Sulle rovesci. No, il dono industriale è per lì, pronto a Murabito, vuoi dire vicino alla rete? Io ho capito dove è là. Perché c'è Buglioni e poi c'è quello. Sì, Buglioni non so se sta facendo ancora più rottamazione, sembra che non sta facendo più rottamazione. Oh. Mi sa di no, così l'ho sentito. E lui era morto, Gattone era morto, Comunque si trova di tutto, molto, di tutto già ciappa. Vedi, già ciappa che anche Marmita Maramottovea, di chi si rovinci. Ma lo scuserò, è visto dalla difficile. Dice, oh, magari le risposte le devi anche andare durante, magari, se vuoi d'accordo, te lo dato. Io vinci lui, non è che c'ha nulla la marmita, no, capito? Lui non la devo vinci per farla camminare più. Sì. Il terminale, no? Mettere la marmita, che di solito mettono alle ulici perché sta andando alla grande quella lì. E poi capo, cosa voleva fare? No, due fesserie. Ma sa che toccare appena la centralina e aumentare i cavalli. Capo, ma secondo me non c'è bisogno di mettere la marmita alle ulici. qua là ce l'era male una moto a corsa. Io preferisco per una moto silenziosa e quando apri che cammini molto. La mia stava difettando così, stavo sentendo la marmitta che era corposa, quando accelerava c'era brom brom brom, non molto rumorosa, però sentivo che c'era qualcosa. Ieri prima gli ho fatto fare la revisione, poi una volta che ho fatto la revisione se non mi abbassava, magari. Ti ho detto che c'era questo problema. Adesso provo a metterla in moto, ma sta preso brom. Dicevo, ho capito già cos'è, la guarnizione che c'è tra il... No, io pensavo fosse qualche prigioniero mollato del collettore, invece ha detto che la guarnizione dove aggiungere la marmitta, che quella si consuma fuori di scaldare. L'ha smontata, ha messo la guarnizione, 20 euro, la moto silenziosissima. Capo, una fesseria. Sì, una guarnizione, 20 euro che sono guarnizione, ti immagini? Chissà, ma ti ha fatto pagare un coso, ti ha fatto... Non ti pensare che ti abbia fatto pagare la guarnizione, no? La guarnizione costerà un euro così, 2,50 euro, ti ha fatto pagare pure la manovra. La marmitta mi ha dovuto scendere. Vabbè, comunque se va bene, non c'è problema. Lavoro non l'ha fatto. Guarda. Fesseria. Infatti. A volte ha detto che se ne entrano dentro. Se ne entrano dentro. Si deforma, se ne entrano dentro, quindi non fanno più il lavoro che devono fare. E a volte invece dice che si consumano tutto dal canone. Troppo grappa. Aspetta che attacco un po' quello grande già. Ora. Riprendi con qualcun altro. Gianni. Senta, secondo? Noi l'avevamo buttato in moto, chissà. E quale? Seconda moto, il... Seconda moto. Il chopper. No, no, non l'ho messo ancora in moto, dovevo spulgare e mettere le... Stavo aspettando un amico mio che veniva, perché dovevamo farlo in due questo lavoro, perché uno pompa, l'altro doveva mollare da sotto. E domani viene e lo facciamo assieme. Lusso? Sì. Non ce n'è, l'ho smontato, quello lì glielo devo rimettere nuovo, se ne va poco, Stavo dicendo, Gianni, come ti sto arrivando così? Guarda, vabbè, adesso sono normale. Stavo dicendo, ma che c'è in ruota, che io non li sento passi gli altri? 9,5 se ne vanno, c'è Antonio e basta, io e Antonio, non c'è nessuno a fare tu. Aspetta, ok, aspetta un attimo, dille scusa Antonio un attimino, che facciamo questo controllo un attimino. Allora, così 9,5, vero? Così invece quanto è Gianni? Va bene, poco? Aspetta, questo sto entrando qua, un attimino. Ok. Sì, 9,15. Così è 9,15, vediamo un attimino. 8. Come mai sta facendo questo? Ok. Così invece il passo, vero? Passaggio 9,30, passaggio 9,15 o passaggio 9,5. Ok. Quasi rimetto l'altro perché mi piace più l'altro come funzionamento. Scappa perfetta. Allora, perfetto, dai, torniamo alla regolarità. Ok. Ma Gianluca, quando la metti a posto questa moto dietro ce lo facciamo? Sì, però non può uscire quella lì perché non è targata, non può tutti, però vedi, è bella, E come fai a uscire allora? Pongo la lì, non capisco, non capisco, non capisco. cammea. Ah, perché non ve la vuoi fare? È un casino a farla, vuoi la tua motorizzazione per matricolare. Faccio un prototipo, ragazzo, una moto di risulta il prossimo minimo, mi dici da tenere a grande ora prego, come siete con questa? Benzina, quattro tempi. Benzina anda. Ehi, a benzina basta da qua già. A quattro marce, c'è la frizione automatica. 110 a quattro tempi. 110. Ma l'hai fatta tu, l'hai costruita tu, a pezzo a pezzo oppure. A pezzo oppure. È proprio originale. No, è proprio come presa così la internet, l'abbiamo invita un amico mio all'asta e da voi la via da me. Capito, avanti anche tu. Capo, guarda a vedere questa radio come ti sembra già. Va bene, anche chi sei, Rumanno? No, lo dici che è giuro e Antonio. Va bene, perché sta facendo col presidente adesso? Ma ecco, Anto, no, mi senti a me? No, lo senti? No, chi è? Di Gianluca. Così mi senti, Anto? Fa salutoni a Gianluca, perché mi sente? Adesso ti sento, Anto? Adesso sì. Sì, almeno un po'. Capo, c'ho un pochettino di difficoltà a sentirti Gianluca, io, perché c'ho il QRM alto. Ma come te scendi, ciao? Sempre con un tantennino? Sempre. No, Antonio, dai. Bisogna che a tempo sopra la popa e la pulimo che antenna. Lo so, ma non è. È un discorso un po' lungo. Non può farlo, Non può farlo. Kappa. Sì, Gianlu. E pulimo la targa. Non è già viraggio già. Ma no, viraggio di Tardini, che si sono originali. Che se la puni. Allora, sì, da gennaio a febbraio ci sta lì, ci crana, lo sai? Ah, te l'hanno tutta con la targhina. E che bisogna mettere le targhe grandi? Basta che tu vai alla motorizzazione e ci ascolti, io ho questa targa qua personale, su questa moto qui. Tu non metti la targa grande, ti paghi 70 euro e ti vado di tutto, cosa vi vuoi? Ma si vede già, ma cosa cazzo devi fare, prendere di nuovo sì? Ha fatto la legge e ho trovato l'inganno di Diariso. Un attimo già che mi vado a sfogliare, dai, che mi cambio, dai, mi levo questa roba di travaglio. Allora, si cantendi. La musica è una settimana e mezzo perché Gianluca sta sfogliando. Scappa. Lo sai che mi è tornato a posto lo smettere di questo apparato? Davvero? Per magia? Sicuramente c'era polvere o qualche cosa che l'ho bloccato. E chi lo sa? Vabbè, meglio così altro. Tacca già a vedere come arrivi. Ah? Chiudimi un'imparriata. Così è. Perché come ti sta arrivando adesso? 1, 2, 3, 4, 5, la più, no? 9, 25, 6, 4, questo Smith. Mi sa che era tutto bloccato, ok? Ma vai da là. E ora già tocca il 30 un po'. Adesso arriva più forte. Ah. Questo qui sono la potenza dell'apparecchio. Va bene già. Gianluca, che si è spogliata? Dai, che sei, Gianluca? Non ce la devo prendere, eppure la voglio vedere che siamo otto. Chopper. È permesso? Avanti. Buonasera a tutto il mondo. Buonasera anche a lei. Come va? Beh, diciamo che va bene, ti stavo sentendo cantare, dunque ho detto, Mimi, ancora un po' rasè. Lo sai perché ho cantato? Perché Gianluca e Paolo Torre hanno detto che stavano da cambiarsi, allora che ho fatto la musica 9 settimane e mezzo. Io Dio mio, quello nudo fu. non lo so. Cava. Ho detto che andava a dire la roba da lavoro, io gli ho fatto la musichetta. Tararara. sei veramente un Don Giovanni e anche una bella voce, complimenti. Grazie. Antonello. Eia, buonasera. Beh, Antonello, te mi conta già. Oggi ho sentito quella notizia di quello che hanno arrestato Rossi, che picchiava i genitori. Guarda, ti giuro che mi stai spiazzando, perché la prima cosa che sento, ma è dal giornale. No, l'ho sentito Antenna 1, che praticamente questo chiedeva sempre i soldi ai genitori, quello ne hanno voluto dare, li ha picchiati, l'hanno denunciato, poi sono arrivati i carabinieri, si stava girando anche contro i carabinieri. E minchia, domani chiedo a vedere, chiazzo mi ha messo la pulce nell'orecchio e comunque domani chiedo e ti faccio sapere, va. Ti giuro, la prima cosa che sento, non, vabbè che io pure il telegiornale non ne guardo quasi mai, perché mi dissocio dalle presenze di Fondelli, della TV, e dunque domani ti faccio sapere, te lo faccio io domani la nuova sapere, se ne so a chi chiedere. Non l'ho malettato comunque, no, l'hanno arrestato. Ma comunque nome e cognome non l'hanno detto, no? Ce l'hanno detto, ma non me lo ricordo, se me lo chiedi non lo so, ho sentito il particolare, infatti mi sono soffermato lì a ascoltare perché mi ha incuriosito, mi ha detto forse da qualche tossico. È minimo, e comunque già mi informo, vai, grazie dell'informazione, adesso mi ha messo l'orecchio, domani chiedo e mi attacco e ti tengo informato, dai. Da solo sei Evil Splendid? No, non sono solo. Allora, sono in compagnia di Gianluca che si sta cambiando e poi di Antonio Bombolo. Vabbè, per chi vuoi, carissimo. Indaghiamo. Ecco l'altro. Buonasera anche a lei, ben entrato. Piazza. Diciamo quando esce da lavoro è sempre lì dalle 5 in poi, sta sempre, come diciamo noi, fiagando le tronche degli altri, noi in paese diciamo così, e dunque chiedo a lui, già è abbastanza informato, domani gli faccio sapere, dai. Comunque buonasera. Buonasera a tutti quanti, vi siete sovrapponati uno con l'altro, va bene, comunque buonasera. Il paese è piccolo, la gente mormora. 6.500 abitanti, non è così piccolo, no? Ehi, vabbè, piccolo nel modo di dire, ciao Antonello, buonasera. Perché eravate curiosa sta gente? Lo so, è la ben fine niente. Dai, e dunque così di cosa stavate discutendo di bello? E stavo parlando della moto di Gianluca che si stava mettendo a posto, di questa moto che hanno ordinato da internet, però dice che è un prototipo, non si può togliere fuori perché non è targato. È un chopper di quelli 110 di cilindrata, eppure lo voglio vedere. Sono entrato, ciao Antonello. Sono Antonello. Ehi, buonasera, Polo Torres, come va? Tutto bene? E il tuo apparato, che sono curioso. Ciao già, no, ancora nulla, sto aspettando, dovrebbe a giorni, mi ha detto che faccia sapere qualcosa. Mi raccomando, tieni informato che sono curioso a vedere se tutto a posto, dai, rimani soddisfatto. No, quello sì, perché è una persona seria, Antonio. Non è uno improvvisato, no. Dico vendi a conta, va rosito, va tutto. È fortissimo. Non ho sentito parlare bene anche da radioamatori, mi dice. Ecco. Ma siamo già 3 settimane. Speriamo che questa settimana mi sa dire qualche cosa. E se no sarà la prossima. Aspettiamo, oramai abbiamo fatto 30, facciamo 31, Antonè. Però se rimani qua Saturneco, Antonè, te lo manda tutto allineato bene, tutto quanto perfetto. Allora, piano piano, mi facciamo una cosa, siccome siete delle persone abbastanza gentili e oneste, e oltretutto altruiste, specialmente tu, fate colletta, grazie al vostro pensiero, che mi sarò riconoscente, spedirò il mio apparato là e lo posso allineare tranquillamente, dare una bella sistematina. Già detto, vi dico grazie, molto gentili. Sì, Antone, portamelo a casa, ce lo spedisco io, non ti preoccupare, da voi a esitelo. O se no, lo potete pure mandare a voi l'indirizzo, quando rientra, pure l'indirizzo mio, e dopo partecipate ugualmente. Gentilezza chi altri, boh, grazie comunque. No, Antone, fa una cosa, portalo a casa, tu poi ci hai speso io, ce lo spedisco io. Oh, Gianlu. Ciao, Sandro, dimmi. Ok. Ti volevo dire, i papelli di modulazione sono troppo alto per te? Bene, è bella potente, medacca, è bella potente. Beh, con fronte a Gianni e l'acri che arrivini è più forte. Può anche leggermente abbassare, ma non mi date fastidio. A Naburo vai così come ti sei. Ho capito, ma no, è giusto per sentirsi un attimino. Va bene. Antonello, ma nella vita sei stato sempre di cuore buono? Io sono nato così, perché? No, no, giusto, adesso giusto così, non per sapere come sei fatto, come non sei fatto, ma no, perché Gianni ti ha dato un consiglio, diciamo, quello di Galas, di mandarlo, diciamo così, che la linea e tutto subito ti sei lanciato, a me facciamo fatti la colletta e io sono a posto. Ma stavo scherzando, per carità. No, io consigliela sinceramente, io li raccolgo, poi quando mi servono ci penso a quello che mi hanno detto e valuto la verità. Poi non mi costa niente, nel senso non mi costa niente, piano piano racimolo a spicciolo, perché purtroppo oggi lavoro, domani non si sa, alla moda di tutti alla fine, se no guarda, avendo lavoro fisso volentieri, avrei ascoltato il suo consiglio, l'avrei spedito. È fatto in qualsiasi cosa bisogna fare con i vostri consigli, per carità, molto volentieri. Poi alla fine era una battuta, tanto per sorridere, dai. Comunque Antonio, se vuoi lo vediamo questo problema che ti dà, lo vediamo insieme, lo apriamo. Ti metto lo spray per contatti, vediamo se riusciamo a risolverlo così. Capisco il gulidate. Lì là praticamente quando cambia la frequenza se ne va un po' a conto suo. Praticamente la commutazione. Oh Gianni, ma non è che anche tu hai cacciato il pelo? Già, Alessandro. Ho detto, non è che anche tu hai cacciato il pelo? Non è negativo, io non ho nessun cacciavite d'oro, però alcune cose mi arrangio a farle, sin dove arrivo per mettergli un po' di spray nel commutatore, non penso che ci voglia la laurea. Ma lì non è oggi, lì non è questione di spray, lì non è questione se uno vuole fare l'apparato, diciamo, tranquillo e sereno, diciamo, bisogna, almeno dal mio parere di vista, e poi ognuno logicamente poi fa quello che vuole con la roba sua, per carità. Io sono sempre del parere che se uno vuole una cosa allineata, vuole una cosa tranquilla, lo deve portare a chi di dovere, capito? Io l'unica cosa che mi adeguo ogni tanto, non so se te ne sei accorto, è giusto per adattare qualche mic così e basta, poi del resto lo lascio fare a chi di dovere, tutto quanto, ok. Antone, adesso sta scaldando, dopo un attimino ti faccio sentire il gemello, quello che Gianluca ha spedito da quella persona, diciamo, che lo sta controllando, dove l'ho scritto anche io, che me l'ha messo a posto, diciamo, allineato. Porca miseria, già arrivi abbastanza forte qua, sembra che stia crepando la colonnina quando moduli. Non è quello l'apparecchio. Ma gli immaginati se non è quello. Questo sta uscendo con una pompa, vediamo l'altro, sono curioso, adesso ne ha messo la pulce nell'orecchio. Comunque volentieri, guarda, forse che sia anche una cazzata, come dici tu, perché non voglio mettere le mani per rovinarlo perché mi dispiace, però se nel caso è una pasta di spray funziona, ma ora questo signore qua e ti prendo dei 5 litri di vino buoni, sani e dai, e ti ripago così. Ma non c'è problema. Se un piacere lo posso fare, lo faccio. Lo spray ce l'ho, quindi non c'è problema. Che cosa c'ha? Le viti laterali nel coperchio oppure c'ha le chiavi esagonali? Ma no, vabbè, per togliere diciamo la parte superiore c'ha le viti, poi sotto diciamo che fa il fondo, anche lì, e togliendo il fondo si vede direttamente già questo commutatore a scacchi alla fine, tutto lì, niente di particolare. Però bisogna vedere se ci sia qualche piccolo spazio, qualche intercappedine in modo da sfruttare lo spray, quello dovresti vederlo tu, tutto lì. Che lo puoi fare, Gianni? Smonto il pomellino, un attimino, lo metto un po' in piedi e lo sputa appena appena. Già ci va dentro. Infatti, anche così si può fare senza smontarlo. Ma comunque, se vuoi fare il lavoro fatto bene, bisogna soffiarlo prima con l'aria e poi sputarsi lo spray. Perché sennò si impasta, capito? Oh, un attimo. Oh, ok. Antonello, se abbasso, non ci sono problemi. Poi mi dirai, Gianluca, questo è il D6, il D6 con doppia capsula, adesso non ridete, non mettetevi a ridere, perché dice doppia capsula, ecco quanto può essere, e tu, io vi ho messo una doppia capsula, capito, tutto lì. Ma è in parallelo? Sì, calma, rilassatevi una alla volta. In parallelo, dico? La sua normale, il D6 ce lo conosci, la sua capsula normale, poi un'altra capsula libera sopra, sul piantone. Sei sicuro che stanno tutti e due? È normale che sono sicuro che stanno andando tutti e due, perché logicamente le mie prove le ho fatte già. Non lo so, solo chiedendo, perché magari sta funzionando una sola, hai capito? Non lo sento. Bisognerebbe provare mettendone una sola e mettendone le due insieme, così saprei dirti se prende o meno. Allora, adesso ti spiego le prove che ho fatto. Ho fatto le prove, diciamo, ho provato prima una, poi ho provato tutte e due, io logicamente mi sono ascoltato diciamo in cuffie. Mi sono ascoltato in cuffie e diciamo ho provato la modulazione sia con una e sia con due. Io adesso per dire sono al minimo con amplificazione, siccome questo mic ha un po' l'effetto eco, se io adesso mi ascolti male, adesso l'eco non c'è per niente. Poi mi dirai come se cambia la modulazione, ma questi sono effetti diciamo dell'eco, diciamo, dell'amplificazione. Però diciamo, è una prova che mi sono fatto e diciamo la modulazione che la cambia. Che non è fatto io, Alessandro, nel corso della capsula le portare due file con un tastino che potevi disinserire il funzionamento di una e dopo reinserirlo? Si può fare che ancora, così te ne rendi conto? Ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco. No, oggi non c'è bisogno, Gianluca, del tastino. Ho già provato sia in cuffie, mi sono ascoltato diciamo la modulazione, sia prima con una, sia con tutte e due, e la modulazione diciamo te la cambia. Capito? Tutto lì. Avanti Gianpaolo con la buonasera. Gianpaolo, allora? Sì, ho mandato il telefono a me, la regia, la cosa sì. Mentre devo vacanza e si passa il secondo orario, e basta. Quindi, sì, la questione si sta affrontando con due. Ok, perché non sto mandando a fare il momento. Va bene, guarda, ti ho chiamato stasera, non ha risposto nessuno, dai. Cavaga, vabbè, non c'è problema, avanti, Antonio. Antonio Bombolo. Antonio si è perso, avanti Gianluca. E io. Si vede personaggi, chi c'è canale 5? Canale Dai. Lo prende vedere in Italia TV, sì. Due capsule, è l'alimentazione, cosa hai fatto, sai? La fetta, 9 polsi? Per cui c'è sempre uno, capito? È giusto come ha detto Gianni, il circuito è sempre quello là, capito? È sempre quello là. Soltanto diciamo che il collegamento è sulla scheda del mic, l'amplificato, capito? Tramite la scheda, il circuito stampato che c'ha il mic, logicamente non è che è presa, diciamo, collegata allo stesso, ma alla stessa capsula sua, ma bensì dal circuito stampato. Capito? Lo faccio già fa. No, niente da fare sull'altro. Gianpa, non riesco a capire perché, infatti c'era, ho controllato c'era una, aspetta un attimino, aspetta un po', ok, oh. Ok, c'era una, come si chiama, una resistenza staccata, gliel'ho saldata, però diciamo la portante, diciamo, gliel'ho trovata. Ci ho dato la modulazione, ma quando tu non l'hai più usato, stava funzionando? Non lo so, già qua, non lo so, no. Vabbè, tutto più devo vedere un attimino, perché non lo so, perché ho provato anche sull'altro e niente da fare. Comunque, adesso vediamo un attimino che cosa diciamo sarà venuto fuori. A proposito, c'è qualcosina sull'MC60. Tuttavia domani pomeriggio mi avvicino che lo vediamo assieme, perché intanto tu ce l'hai uguale. Ok, scusi alla ruota. Ok, Antonello. Eia, devo dare la buonasera a Giampaolo, che ancora gli ha dato. Buonasera Giampa, se mi copie, tutto bene? Lei quando è che viene a casa? Ci mangiamo qualcosa, ti chiamo, boh. già ti chiamo, invece non mi chiami, bravo Zé. È vero. Un attimino, ok. Scusate un attimino che... Allora, io ho cambiato cavallo. Antonello, questo è il gemello di quello di Gianluca che ha spedito. Come mi ascolti? Allora, la voce rimane leggermente più rauca, come voce, rimane leggermente rauca e leggermente satura. Dunque, quando non moduli, arrivi a... qui nel segnale c'è un radio di 5, un segnale di 5, e poi quando moduli da 5 arriva a più 10. Cioè, questi picchi allucinanti. Allora, aspetta un attimino, che c'è qualche accorgimento qua, vediamo un po', ho abbassato un attimino. Adesso va meglio? Sì, adesso va benissimo, fa da 7 a più 10, da 7 a più 10, adesso è molto meglio. Ok, considera che io adesso sto usando un mic normale, non è un mic amplificato. No, per la storia, si sente abbastanza bene, la verità. Ok, vediamo un attimino, Gianluca. di verità. Ok, dai, tu magari in vicinanza mi ascolterai meglio, dai. Sì, a buia. C'è il processore inserito, no? Sì, ho inserito il processore, ho diminuito il mic gain, logicamente, perché se aumento il mic gain poi logicamente va in distorsione. Intanto se chiedo a Gianni che mi dice sempre ok, va tutto bene, vero Gianni? Cosa? Adesso questa modulazione lì come ho cambiato da uno all'altro. Allora, come io lo dico che va tutto bene, se va male dico che va male. All'inizio non mi piaceva nulla, adesso le regolate va meglio. Ok, dai. No, era giusto per far capire, diciamo, a far capire lì a Antonello, capito, che questo è il gemello di quello che ha spedito lì da Bianconi, da Carlo, che in effetti io lo stesso ho mandato su, ma l'ha mandato giù, diciamo, tutto allineato. Ma io adesso al momento ho un mic normale, diciamo, quindi ho già strato un attimino sul mic gain, tutto lì. KK. E in effetti prima all'inizio era saturo. Senza ombra di dubbio, comunque preferisco sempre il K. Ho capito, ma considera che il K, che col K io stavo andando, diciamo, con un mic che ho adattato, non stavo andando con la MC60, comunque, diciamo, va sempre bene, qualcosa limiti al K va sempre bene. E poi 27 si adatta, capito? Qui Batman, qui Batman. C'è Robinho, c'è Robinho. Avanti questa farmacia, se vuoi entrare. Certo, se vuoi entrare. Ecco, c'è una ruota, quindi devi rispettare le regole. Se vuoi entrare, ben entrato. E avanti. Dove non vuole entrare. Poco fa c'era Luca che stava chiamando, adesso che mi sono ricordato. Luca, scusami, ma non mi sono più ricordato che ci fossi. Avanti, Luca. Un Dio che già vendi, boh. Aspetta, aspetta, collego. Prova. Ok. Aspetta. Vabbè. Non stavo chiamando, ma ho detto a me. Luca, buonasera. Buonasera, Lucrezia. Oh, un attimino. Questo qui è Luca di Sassari. K. No, non è lui. Luca, ma cosa hai fatto? Ciao, cosa ho fatto? Sto usando il baracchino adesso, sa. Ciao, anche a te. Ah, per quello, ok. Perché ho visto che evidentemente, esatto. Stava usando qualche momento mai, che è tutto lì. Praticamente ho fatto il cavetto perché è good. Quello posso usare in tutte le macchine. Ok, va bene. Chi c'è rimasto? Antonello, riprendi, te la fa. Buonasera Luca, da parte di Antonello, non so se la prima volta che ci sentiamo, sono mezzo rincoglionito io. Ehi, ciao Luca, sempre qua Luca da Porto Torres, sì. Faccio girare la ruota, dai, ciao Paolo, avanti. Ciao Luca, mi hai sentito, per entrare. Io poco fa ho sentito la battuta, però stavamo parlando, forse tu lo hai sentito, stavamo parlando e involontariamente come ti ho fatto la bozza, le calpestate, infatti ti ho detto è stato un attimino, poi mi sono dimenticato io, è stata anche colpa mia di farti entrare. Vabbè, detto questo, vi mangerei tutta a bombolo che l'ho chiamato poi più volte, non si è fatto avanti, deve essere che stava facendo qualcosa, avanti bombolo. Chiappa, no, era un pochettino qua che stavo guardando una cosa. Chiappa, chiappa. Bene, c'è Giampaolo che sta facendo qualcosa, avanti Giampaolo. Perché io a sedere ti sento come una telefonata, ti ascolto, basso ma ti ascolto. Chi è Giampaolo? Sandro. Comunque, non so se l'avete notato. No. Sta rientrando e sono contento, e lo sbaglio. Ho capito, non ho capito cosa hai detto, dai. Ripeti per cortesia. Niente, che vedo che molta gente sta riniziando a modulare, ho la mia impressione. Ah, questi che siamo qua, siamo tutti di vecchia era, quindi ogni tanto entriamo, ci facciamo la chiacchierata, anzi ogni tanto io ogni sera, la verità, da già da un bel po' di tempo, circa 8 anni, 7, 8 anni, stiamo rientrando quasi tutte le sere. Ecco, un attimo, forse Gianni si ricorderà, allora c'era una tradizione, ormai è tramontata di più, che per i nuovi CB entrati in frequenza nella 27, c'era un impegno. Che dovevano invitare i vecchi CB a una cena. Quindi Antonello, preparati a Ossi. Una pizza, un giro pizza, dai. Tu va a este gusto. Ecco Gianni, tu sei sempre quello che rovini tutto. Ecco. Fatti break. Buonasera, 7-3 a tutti gli ascoltoni. Vito De Lino spacca tutto. Ciao Torellino, ben sentito, cordialità anche a te. Siamo in tanti, non so se hai fatto ascolto. Elencarti tutti, ho paura di dimenticare qualcuno. Comunque, ci provo, va. Allora, c'è Sandro, Sandro Gianluca e Giampaolo da Porto Torres. Poi c'è Antonello da Ussi. Luca da Sassari. Mombolino da Sassari e Doppio Ru da Sassari. Se ho dimenticato qualcuno, chiedo linea. Avanti Mombolino, se ascolti a spacca tutto. Capo, no, non l'ascolto ma a Torellino, non so se lui ascolta a me, comunque lo saluto se lui sente a me. Registrato un attimino. Vabbè, ti saluta Popolo se lo ascolti, dai, lui non ti ascolta, ha detto. Avanti, vediamo un pochettino se lo ascoltava a posto Torres. Avanti Gianluca, se ascolti Torellino. Ciao Tonellino, sì, l'ascolto basso in mezzo a QRM, non so se lui mi ascolta, magari adesso facciamo girare la ruota e vediamo un po' di vedere come stiamo arrivando da Porto Torres lì. Faccio girare qua la ruota a Porto Torres, avanti Sandro, dopo potrà cambiare il segnale. Poi facciamo entrare un break, che c'è stato un break. Ok, sì, ma spacca tutto Antonellino, insomma, qualcosa del genere, ho capito, l'ho tirato fuori, diciamo, un po' benino, non tanto, ma un po' benino. Gianni mi stava anticipando che c'è stato un break, andate il break. Andate tutti in QRT e lasciate libero il mio canale. Ciao Antone, ciao Antonio. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ciao Grode, ben sentito, cordialità, dai. Hai fatto ascolto prima di entrare, oppure devo ripetere tutti i signori che ci sono qua in ruota? 351 a tutti quanti, ho fatto QRX come si sovviene per un vecchio CB che non sono, perché io sono giovane al contrario di qualcun altro, e comunque saluto gli amici di Porto Torres assolutamente e gli amici di Sassari e quelli un po' meno come Luca. Riprenditela Luca. Ciao Torellino! Gli amici e quelli un po' meno come Luca, quindi vuol dire che tu sei più che amico. Appa, sto scherzando, no, mi riferivo ai più giovani e meno giovani. Sono un bacio a bocca, visto? Ascolta me. Comunque, Grode, da quando mio figlio ha sentito il tuo nominativo, non fa altro che ripetere Grode, Grode, Grode. Sono degli intenditori, sono. Rilanciamo tutto a Torellino là e poi fai girare. Ehi Roger, Torellino qua piccolino sta, ma è forzando per Gianluca e per Gianpaolo. Gianluca ti ho sentito anche a te piccolino piccolino, ma già vi ascolto, avanti. Aspetta, aspetta un attimino, Torellino per Ottava. Ciao Ehi Roger. Sì, cacca. Guarda, mi sta arrivando un Santiago di 5, una radio di 2. Ma sei in macchina? No, negativo, condizioni precarie per il momento. Ah, ho capito, vai, ho capito, va bene. Allora, per questa precarietà diciamo è provvisoria, quindi lo accettiamo, dai, lo accettiamo. A te, dottore Lì. Avanti. Buonasera ad Antonello d'Ossilandia, se mi copri. La gara che ti copio. Mia buonasera, comunque il fatto sta per la pizza. Allora, tutti che ci sono in ruota, anche chi manca, giù c'è una piccola taverna, dunque se volete organizzare, per me problemi non ce ne sono. Cazzo, se siete una cinquantina già mi esci su conto, allora dividiamo, il posto c'è a casa e ci si può organizzare, a me farebbe piacere, poi tocca a voi decidere. Ma aspetta un po' me. Allora, a noi ci fa piacere la tua iniziativa, ma non ricominciare di nuovo con la colletta, Già amico, se canto Picheri, 1000 euro può dare a mandicare a voi, sì, tanto non mandicate buffate. No, aspetta, ognuno mette un tanto e si fa la spesa, oppure chi porta le bistecche, chi porta la salsiccia, chi porta il suino, e così è che si fa, chi va a San Gavino porta pane e vino. Poi lo vedi in fretta, poi. Cava, io uso così, puro, lo so. Come meccanismo diciamo è sbagliato, allora, siccome Antonello è uno dei pochi recenti diciamo sulla 27, io ho rammentato diciamo una vecchia tradizione, Gianni mi ha scoggiordato e mi ha detto non è vero, non è vero. Comunque Antonello, mettiti l'anima in pace, di solito noi quando organizzavamo qualche cosa tra CB diciamo e così via, logicamente si partoriva, diciamo si metteva un tanto a testa e quindi adesso stanotte dormi tranquillo. Guarda, no, non ti preoccupare, lo so, sto scherzando, comunque fatto sta, io sono dal 93, anzi sono da all'età 18 anni che ho avuto il mio primo apparato e la mia prima concessione, poi un po' mollato, sai, per un sacco di questioni, però fatto sta, così tanto giovane non lo sono, solo che ho mollato la verità e via. Però ripeto, mi farebbe piacere, perché no, se voi organizzate il posto a casa c'è, il vino lo porto io, quanto ne volete, buono, il posto c'è, problemi non ce ne sono, dunque spetta a voi. Allora io e Gianpaolo arrivo, parte presenza. E allora facciamo la pacetta arrosto. Vabbè, dopo ce lo spiegherai, ho già lui. Vabbè, no, non ci sono problemi, Antonio, non ti preoccupare, guarda. Guarda, io ti posso dire che in frequenza ci sono dall'80, logicamente come tutti. Giampaolo ci sarà ancora prima di me, quindi Giampaolo ti può dire che battaglie ne abbiamo fatte di tutti i colori. Noi non è che abbiamo avuto, abbiamo avuto qui a Bolotone, già abbiamo avuto la sede CB, dove abbiamo organizzato tante feste, abbiamo organizzato assistenza a gare ciclistiche, insomma abbiamo fatto di tutto. E ti posso dire, guarda, che erano degli anni veramente tocco, dove ci si comprava. Noi si faceva poi, abbiamo fatto la caccia a tesoro, tramite il baracchino, tutti con le macchine. Guarda, altri tempi ancora. Scusa un attimo, ma perché non si può riorganizzare, porca miseria? Ma tutti invecchiati precocemente ci sono, la maggior parte delle persone, perché ancora non si può continuare questo. Sempre si può fare, basta avere voglia, si può fare tutto. Aspetta un secondino però, Sandrino, ascolta, mi sembra che c'era Antonio di Ottava, era? Antonellino! Antonellino! Avanti! Mi stavi dicendo che sono io che ti arrivo passo passo? Quando ti sto arrivando, Antonellino? Non è che c'è solo tu, no. Purtroppo sono in condizioni precarie, quindi ascolto tutti i bassi io. Li ascolto tutti i bassi. Perché mi sono spaventato, perché a Sandro metto che... Quanto ti arriva Sandro a te? Aspetta un attimo. Antonellino, mi senti? Si chiama Torellino. Ah, Torellino con la R, come il toro. Come il segno zodiacale, il toro. Torellino spacca tutto. Come bilancia? Oia, vaga. Ma non li tributi di buoni un po' venendo di questi nominativi semplici? Tipo acciughe sardine, dai. Torellino. Le fai un po' piccolino, eh? Ok. Torellino l'ottava, mi ascolti? Va avanti. Ok, adesso ti mando avanti Gianluca, la promotore, se vedi un po' di differenza c'è, come mi ascolti, tra me e Gianluca, vai Gianluca. Allora, no, perché io poco fa ho sentito che ti arriva 5 a te, Sandro, no? Così mi stavi dicendo, Sandro. Invece a me ne arriva 9, vabbè, sempre in mezzo al QRM, un pochettino, però il segnale mi arriva fino a lì. No, a me mi arriva. Torellino, vai avanti. Ragazzi, allora guarda, Sandro a me ne arriva leggermente più forte di Gianluca qua. Ok, Torellino, Gianluca a me mi arriva su 7, sentiamo 7. A me quasi a 9, Sandro. Allora fa una cosa, con la scarpetta, dammi un'altra mezza girata, scroppicciala un pochettino. No, cavolo. Puffa casino. Dopo c'era, saluta Antonio Grotte che è entrato poco fa, mi sembra che l'hanno salutato. Ciao, sono Antonio Grotte, come si fa l'inverno? Perché se ti ho fatto quello che non si può fare? Sono malissimo. Beh, sentito comunque il Torellino. Napoli. Ma cosa ti è successo? Ho fatto apposta. Ma che cosa ti fa male? Come qua? Alla grande. Carità, ragazzi. Io. Ok. Adesso chiedo una cosa a Gianni. Gianni, tu te la ricordi che vi è dietro la scuola del grasso? Non so se te lo ricordi, la scoria del grasso per le stazionarie. K, anche dello spray. Vedi. va. Antonello, mettiti in linea. Non so questo perché non so quante le avrei voluti vivere quei tipi che avete fatto voi per tutte queste esperienze. Purtroppo non sappi che te lo dico, perché già è abbastanza piatta la vita in zona, un po' da tutte le parti, perché la gente non esce, ma non so quante le avrei volute fare, manco un'idea ne hai. Allora, aspetta un attimino. Oh, Antone. Io sarei del parere di non disturbare a casa tua e di fare una cosa al limite in pizzeria. Cioè andiamo tutti in pizzeria, oppure andiamo al brewing, ci mangiamo roba di calamari, roba così, che sono per piatti composti e non costano tanto, e siamo tutti in compagnia una sera. Scusate un attimo, invece si potrebbe andare da Modale a Porto Torres e fa 15 euro pasto completo. Dove hai visto Modale? Gli amici di Porto Torres sicuramente lo sanno. Modale, dai 15 ai, forse arriva a 16, dai, se gli diciamo di farci una cosa da 16 euro ce la fa da 16 euro. Scusate un attimino, allora se per il discorso delle 5, 2, 3 euro andiamo da Tua Maria che ci va ancora di meno. Io a voi tocca, voi me lo dite e noi ci organizziamo tutti insieme, volentieri. Io sto facendo così per non creare disturbo, sporcare, fare, anche per famosi e cose che poi gli tocca stare a pulire. Facciamo una cosa in pizzeria, così una volta che ce ne andiamo ci pensano gli altri. Gianni, come sei compresso? Preso? Aspetta che provo. Abbassare la potenza della radio. Guarda adesso, vedere. No, ti sento sempre compresso. Ma so un po', no? Compresso che sei io, Gianluca. Tu lo senti compresso, è normale. No, aspetta, fammi un passaggio. Provo a vedere, Gianluca. Io mi sento bene, perché io mi sto ascoltando in cuffia. Leggermente compresso, leggermente però. Hai levato l'eco adesso? Così che non mi rendo conto. Però mi sembra leggermente compresso. Prova. 2, 3. 2, 3. Quanto già fa? No, comunque è un pochettino compresso, ha ragione. Era molto distorta la modulazione. Batteria scarica, già c'è la batteria scarica del mic. Quale batteria? Non è una batteria normale, il mic è normale. Adesso va bene. Il mic è normale, Adesso Gianni ha messo il dittino sul pomellino e ha diminuito. Va bene, ok, comunque signori, non c'è problema. Se si vuole fare un fine settimana, diciamo posti, diciamo tranquilli, giusto per passare una serata, diciamo, quanti siamo? 5, 10, 15, tutti quelli che vogliono venire, giusto anche per potersi conoscere, non c'è problema, capito? Tutto è magari stabilire il punto, diciamo, o così, ma logicamente diciamo sul normale, senza fare, diciamo, senza fare grandi cose. Giusto una serata tra amici e conoscersi. Io ci sto, non c'è problema, lo possiamo fare a Ussi, lo possiamo fare a Porto Torres, lo possiamo fare a Sasse, dove capita. Siamo la volta. Ok, non lo so, chi è che si vuole fare un giro per chiedere un attimino, sempre fare lì a spendere, non so, quanto sarà, 10 euro a testa, 15 euro a testa, che cosa ci propongono? Se tutti siamo d'accordo per dire oggi cos'è, oggi per dire martedì, se si vuole organizzare per il venerdì sera o sabato sera, per chi è d'accordo? Io sono d'accordo per sabato, perché poi la domenica non si lavora e va bene. Ma San Gavino questo sabato è, che se la dice da San Gavino questo sabato è? Sì. Cazzarola. Ma il prossimo facciamo, dai, perché probabilmente sono di servizio. Esatto, bravo Gianni, me l'hai ricordato, sì, sabato. Incomincia venerdì, poi sabato, quindi Torres escludiamolo perché sarà un gran casino. Ma casino nel senso perché c'è la festa, c'è insomma, i locali saranno strapieni, cioè io mi auguro per i locali, poi non lo so. Se poi si può fare in circondario di formatore, non lo so, c'è anche Campanella, c'è Ottava, non lo so, c'è anche qualcosa a Rossi. Ho paura a Campanella, gli da zio io che dammi, tra Tavetto, mangi un bel paghe poco. Eccomi qua, sono rientrato, Hola. Cosa saluta molto? Possiamo anche andare, ma anche a Sassari, che è centrale tra Porto Torre, Giussi e coso. Andiamo lì al bowling con 14 euro, mangiamo calamari, insalata, frutta, eccetera, eccetera. Però lasciamo sempre un po' di bianco, perché vi state sopra, vi state in gergo porco, vi state spazzigando. Come qua, sono rientrato, Eia, Torello. Antonio. Antonio Grotte. No, non so Zio Grotte, sono Antonio Bombolo. oggi Gianluca è fuori, Ah, Antonio Bombolo, me lo confondendo va. Presidente, per la cronaca, a Campanella per la festa patronale ci sono i nomadi. Sapersi. No, io a Gianluca vi devo mettere sempre Jack lo svelto, perché lui è sempre svelto col dito. Ok. Bombolo, questo farà anche per te, devi venire anche te. E dopo? Si sta organizzando la serata tutti assieme. Gappa gappa. Adesso vediamo. Guarda, in palio c'è un baracchino 27, 40 canali, omologato, perché mangia troppo. Ah, lo ringo. Ciao Carpa. Chi mangia troppo? Chi è che qui che mangia troppo? Guardate chi vi è. No, non la mangia più, la mangia manco, c'è per una testa si sbaga. Lì la mangia per quattro. Allora, guarda, io ti posso dire, sono stato lì, molti di voi conosceranno, lì dal ristorante di Masia, lì a Campanella, dove sono stato al matrimonio di mio cugino, cosa sarà, 2 o 3 settimane fa. Antonella, la moglie Emanuela di Ossi, senz'altro la conoscerai. Ti posso dire, guarda, che c'era Ruffa. Manuela di Ossi? Tu dici un Manuela. Il problema è che dovete dire il cognome, che è un problema in questo momento. Guarda, non mi dire il cognome, perché il cognome mi prende la sorvista. Lui sarebbe mio cugino, è Marco. Si chiama Come si chiama Manuela? Pilo. Pilo, mi conferma Emanuela Pilo, che è il marito, diciamo adesso è suo marito, Marco Cressa della Idel System. Sì, ho capito, abita, diciamo che poi alla fine siamo mezzi imparentati con quelli di Pilo, sì, che si è sposata, non voglio dirti stupidaggini, 1 o 2 settimane fa, e abita 2 traverse dopo casa, sì, ho capito, sì, la conosco bene. Hanno fatto, diciamo, nel ristorante lì da Masia a Campanella, ma ti posso dire, guarda, proprio c'era un paggetto, però la roba entrava, mi usciva a tutto andare, è stato bene, diciamo, dai. Il padre faceva l'ex vigile in paese. Esatto, allora già li conosci, dai, già li conosci, va bene. Li conosco perché poi ogni tanto andavo nella sua cantina a trincare. Ah, ecco. Andare in servizio magari, no? No, fuori servizio, c'è un vino, guarda che è uno spettacolo, me ne scivo al 4 gambe ogni volta da lì, comunque già mi sono divertito. Già. E a Luca lo portiamo? Sì, lo portiamo, dai. Perché no? Ma un attimino, deve venire anche Gianpaolo, eh? È Gianpaolo. che Giampaolo ha precisato, sono maschietti, eh. E voi a prenderti Giampaolo, mi sa sarei giù. Vabbè, poi arrivano le donne, dopo che ceniamo. Giampa! Che vengo io a prenderti, non ti preoccupare. Sì, c'è bisogno che fare tu, e no che cosa vi chiama a fare noi. E allora arrangiali, no, pensali due. Sarà meglio, Antonio. Cazzo, devi fare uno dal paese, ma viene a pigliare uno di questo torre. Ma ho visto che nessuno si è fatto avanti, dunque almeno uno di buon cuore va a prenderlo, può dire, non lo lasci da solo, no? Aspetta un attimo, Antonello, per curiosità, che macchinari? Che domanda che hai fatto, comunque. Una panna. Ah, non ci sta Giampaolo. Allora, io non so perché domanda, perché mi hai fatto questa domanda. Comunque, ho una Panda. Ma il carrellino ce l'hai dietro? No, niente carrello, no. A prescindere da quello. Allora, Giampaolo, se viene in Chrysler oppure in Opel, capito, senza offesa agli altri. Che era questo tipo di macchina? Non essere curioso. Lo sai che la curiosità è donna, e anche tu però, dai. Allora, ti spiego. La Chrysler, diciamo, è già una marca un po' particolare. La Opel, diciamo, c'ha i sedili anatomici, riscaldati e elettrici, quindi... E quindi troppa grascia Sant'Antoni, Se no vado io col furgone a prenderlo io. Poi problemi non finisce, se no vengo con lo furgone. Stiamo scherzando, c'è un po' fuggito. Era da un po' che non si formavano volte così e questo mi fa molto piacere. Grazie, grazie della conversazione, Gianni. Vabbè, mi ha fatto veramente un bel QSO. Stavo dicendo, Gianni, sai che lo furgone, lo buio 30 rolla, Giampaolo. Sì, da voi, papà, non va problemi, io lo lanciamo direttamente. E anche non va la sponda idraulica. Aspetta un attimino, comunque va, una volta come stasera l'ho fatto senza sentirla. Comunque, in mancanza d'acqua ci abbiamo anche il campo qua vicino, dai. Ok, però io a partire di tutte le risate, stiamo scherzando, e va tutto bene. Perché questo è bello della diretta. Se vogliamo organizziamo, ti dico quindi dobbiamo organizzare. Fammo una strumentazione, fermo Tom Burugarò, che cantiamo noi. Organizzando con un padrone della pizzeria e fermo Lugoso. Aio! Ci siamo solo noi, sì, se non nulla. Ci siamo un numero che potremmo pigliare un locale, sì, io dico che a mettere la faccia al pubblico, non è di. Beh, ma se devi fare un karaoke che si può fare. Non avremmo lunga che locale a cantare. Sì, che bello locale. Io già lo so dove devo andare per chiedere, capito? E se possiamo usare rilassarsi e mangiare a divertirsi. Diciamo pure lucchi. Se voi mi vedete di carico io mi. Dobbiamo sapere, prima di tutto canto due masse, perché più siamo e meno paghiamo. Ma io ci sto. No, no, ma io infatti sono così. Io mi arrego due voci di quanto, un cento mi arrego. Sì, ma se infatti se si fa si fa anche, si è sposato porta anche la moglie. Giustamente. Io già la guanto qualcuno la piazza, ma se ne la garro e se la buscio. Queste cose sono quelle farle da soli, le mogli va bene, portiamo un'altra occasione, ma questa è una cena tra amici e bello andare soli. Ah, oh, che se siamo in pubblico già, magna fa me meglio che bisogna fa me, a me non mi carezza, tanto io tocco un mocassino, un cabolo, E così che non mi cade saluta, però se vuoi che ti ricordi il problema non venne, ti devi come una matette. Paga, mamma, facciamo una cosa. Ognuno fa quello che vuole, io... mia moglie non è d'accordo andare insieme a CB e queste cose qui, quindi te lo dico chiaramente, non ci viene. Alla fin fine, ma non ci viene uno stato oggi. Cosa? Aspetta, ma alla fin fine, tutti questi discorsi che state facendo, non ce n'è uno sano. Tuite. E ognuno ha una cazzata più desatera. Ascolta, facciamo una cosa, andiamo a tutti i maschietti per la prima volta, poi se ci troviamo bene, cosa possiamo anche evitare le mogli, non è che... Io la vedo più una cosa nostra, perché le ruote sono le nostre, ci troviamo noi qua in frequenza e cose, quindi è una cosa più nostra che delle nostre mogli, anche se loro sono coinvolte, perché quando parliamo poi ci sono anche loro sempre. Non è vero, Un attimo. Ok. Signori, io vi saluto, perché devo andare a farmi la mia solita passeggiatina. Saluti circolari e ce la sentiamo tutte le prossime. Buon continuo di questa a tutti quanti. Aspetta Alessandro, dacci l'adesione così almeno vediamo di organizzare, dai. Non lo so, bisogna vedere. Bisogna vedere dove si vuole destinare e innanzitutto sapere diciamo chi è d'accordo e tutto quanto. Non andremo in capo al mondo, poi si va a Sassa, non si va a Ussia, si va a Portottore, si prende l'ingosi. Appunto, diciamo, Sassari non è lontano, Ussi non è lontano, solo che se si fa questo fine settimana, Portottore si è escluso. Se poi, cosa volevo dire, se poi si vuole fare la prossima settimana, si può fare a Portottore, tutto è decidere dove. Ma quello non è un grosso problema, il problema. Poi bisogna sapere in quanti si è, chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Questo logicamente è giusto saperlo in tempo. Poi va benissimo, io lo dico già. L'interessante è che non sia una grossa cifra e cosa, che sia una cosa abbordabile. Dentro da capo. Esatto, giusto. Noi adesso si parte, diciamo, fuori un picco massimo di 15 euro a testa, massimo di 15 euro a testa, cioè non è che si deve andare diciamo al Cristallo a Porto Torres o da Silvestrino a Platamona, insomma si va diciamo in un punto dove giusto per stare in compagnia è giusto mangiare qualche cosina, non di farsi una grossa buffata a forza di grigliata, a forza di pesce, diciamo, una cosettina, una serata diversa più che altro. Le cose, il concetto è per di stare in compagnia, discutere, fare, di stare in amicizia, ecco, non è tanto il fatto di mangiare, è il fatto di stare, di socializzare, ecco, quello che mi interessa a me. Concordo. Esatto, soltanto questo qua. È giusto creare un incontro e conoscersi tutti assieme, capito? Tutto lì, non è che si sta andando, diciamo, per farsi le grosse buffate, è giusto un piccolo incontro tra amici e conoscersi, basta, tutto lì. L'importante è, diciamo, stabilire dopo e quanti si è, giusto magari saperlo un due o tre giorni prima. Ehi, che le persone siano serie, chi dice che viene deve venire, dai. Ok, perché sennò poi ci ritroviamo in quattro e ci dobbiamo pagare i conti esorbitanti, non bastano. No, ma Gianni, bisogna sapere dove vai per dire, stabilire e dire, guarda, noi siamo in 5, siamo in 10, siamo in 15 o siamo in 4. Per fare diciamo un menù di base normale, tranquillo, senza grosse pretese, quando ci fai? Basta, tutto lì. Va bene. Ci metti mettiamo d'accordo, facciamo una cosa, lo facciamo la prossima settimana se lo facciamo, perché questa settimana probabilmente mi dovrò segnare di servizio perché c'è la camminata stasera in Porto Torres e probabilmente mi segnerò di servizio e devo scendere per la camminata. Quindi penso che questa settimana non sia possibile, per me almeno, poi se decidete voi di farla non c'è problema. No, se per quello già si devia la prossima settimana, capito? Tanto quello che è la settimana prima, quello che è la settimana dopo non cambia niente, tutto lì. Va bene, signori, salutoni circolari a tutti, dai, ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo, buona passeggiata. Riprendi Antonello, poi fai girare. Ehi, già, buona passeggiata, divertiti. Per me non c'è nessun problema, dai, ci organizziamo con calma, con persone serie, dai, almeno per organizzare poi come va la serata, più siamo e meglio ci divertiamo, non c'è nessun problema, dai, nel caso ci sentiamo domani, allora buonanotte, sogni d'oro. Ciao ragazzi, Sandro, dai, fate una buona passeggiata, dai, da Torellino spacca tutto, ciao. Ciao, no, te ne sento, le... No, sto salutando a Sandro. Scusa, perché mi è uscita la cuffia in questo momento e non l'ho sentito. Ciao Sandro, dai, buona passeggiata, dai, buona passeggiata. Cappa, c'era anche Luca, riprendito. Luca computer. Luca computer. Gianluca. E Grode. Che Grode, lo facciamo venire avanti Grode. Ogni tanto c'è, poi se ne va. Ma sai cosa, ci deve essere qualche donnetta che lo stuzzica. E via da isso. E tu cosa c'è da lamentarti, adesso sposato. A me non lo metti in dubbio, sai, chi più ne ha più ne metta, no? E non sai come sono gli uomini. Pagappa. Ma gli uomini seri non sono così, no? Già sono serio, dai, però sai com'è. E poi non fare stare a queste storie, anche tu sei un uomo, chissà cosa ti viene in mente anche a te. Se mi hai tolto questa storia, scusami, Se ti racconto oggi cosa mi è successo non ci credo. Ah, io dai, in cui sparo, dai. Ho visto questa pippa inchinata, con il pipparo. Guarda da questa qua per poco, si sbatta un palo. L'ha visto lei che ha chiesto qui, ma le muore a me. E scommetto che gli ha visto anche il sorriso. Lui, che aveva... se gli ho visto l'anima. Dite cosa ricca, A volte ti distrai in macchina, che non devi mai guardare così, istantaneamente. Non so, cosa vuoi fare, va, mi viene da ridere perché sennò se metto a parlare qua, e dai, comunque, è una bella storia, complimenti. Oh, ne ho visto uno una volta al semaforo di Viale Trieste. No, Viale Trieste. Praticamente. No, non era Viale Trieste, Viale San Francesco lì. C'è il semaforo. Una macchina. Allora, questo qui stava guardando questa ragazza alla macchina e stava dicendo cosa. Questa ragazza era minigonna e lui continuava a dire le cose, scatta il semaforo, si ferma la macchina davanti. Questo sempre parlando con questa ragazza, boom, si sbatte la macchina davanti, quella ragazza almeno impari a rompere le scatole. Sono lì e così l'acquisto, vai. si compra una bomboletta d'aria, e lo spray quello secco. Prima rispruzzi la bomboletta d'aria per togliere la polvere, se no se ci metti solo lo spray ti impasta tutto. E gli acqua viene memorizzato. Perché? Perché a volte c'è polvere, ma tu li butti lo spray, si impasta, non fa un cavolo, invece così, sfruttando l'aria prima, fa uscire la polvere e poi ci metti, lo lubrificherà. Mi chiama Bien, come si chiama? Zona dei punti. Avanti, Torellino. Ciao ragazza, ma un cariello che ti ha fatto? Computer sicuramente. Luca! Mi è canterino, gli piace cantare al computer. Sono entrato nel suo programma, nel suo sito dove sta lui. Ho anche cantato. Grazie, dai, buonanotte, ciao a tutti. E a sua natura. Cosa tu? Che se vuoi suonare due, tu cosa sei, una campana? Ciao, ci sentiamo. Ciao a tu, buona serata. Ma tu, anche se non mi senti. Avanti, chi è rimasto? Grod, ci sei. Non lo sai cosa farlo, te entra, due secondi e poi sparisce nel nulla, è allucinante. Mi sta ascoltando, fate da bravi. Sì, sì, allora, intanto batti un colpo, no? Sì, sono rientrato, scusate. Stavo dicendo, beh, avete deciso il posto, allora, dove bisogna andare? Non ho dovuto decidere ancora, perché questo sabato sono molti che lavorano, dunque se tutto va bene, al prossimo, dai. Adesso vediamo un po' di decidere, vediamo un po' com'è la situazione. Perché questo sabato c'è la festa qua, per il torre, come stava dicendo il nostro compatriota. C'è la festa e ci sta il movimento, un casino. Allora, ti vorrei, ma tu già ci passi alla festa, sì. E se questo qui non è base in vecchia, siamo al chiosco noi. Ascolta a me, allora senti una cosa, dove ti posso trovare? Io ogni anno a Porrottone se vengo alla vostra festa, dove ti trovo? Allora, adesso io, tanto che ci sentiamo a giorni, anche dopo domani, ti faccio sapere dove dobbiamo posizionare il chiosco di San Michinei, no? Che lo fa in ogni anno, Eddie. Però tanto li mettono tutti in una parte, dovrebbe essere dietro il cristallo, sì, dietro il ristorante Bar Cristallo, dove sono le giostre, lì si vanno posizionati tutti lì. Da quello ti dico che è proprio un chiosco, come ti è fatto, così che tu sai di venire. Perfetto, non c'è nessun problema, allora tu mi dici il punto giusto, la via, perché poi alla fine io ma inizio sempre dalla via principale, l'entrata di Porto Torres, cioè, poi sin arrivare quasi al porto, dunque alla fine la camminata è sempre quella. Mi dici il punto giusto, dai, ci troviamo lì questo sabato allora. Esatto. Metto qualche cosa nel chiosco di riconoscimento, qualche bandiera, qualche cosa. Ah, io ho metterci il tuo baracchino poi già, ti riconosco subito. Poi c'è l'antenna. Ho anche un burichino, ragazzi. Una magnetica in capo. Dov'è? La magnetica in testa, ti vedi? So già che sei tu. Ma Sandro, la tua via è? Sandro è andato a passeggiare col cagnolino. Ah, no, io mi sono lontanato. Ci è venuto un amico un attimo a portarmi una cosa. Adesso non sto scendendo un attimino giù. Ciao Paolo, quel re, se così, per il blu. Sì. E già. Già da me. Già capite che anche qui. Davvero. Non lo esatto. Ok, allora la regga è un karaoke. Sì, sì, dopo di te, sto caricando e allora che mi dico io. Mi ho fatto la tirata la portuguese già. Quindi qui io per il sabato organizziamo il sondeo e viene nei otto bastoni e la compri con la mia, quindi compresi. Gava, gava. No, ciao va bene, no, ciao va bene. Andave. Ma siamo tutti in panico, sì, lo lupo, non c'è problema, c'è a palo, già sappiamo, non lo lupo, e via. D'accordo. Così andiamo tutti insieme, non c'è quello che si è perso, l'altro che non trova, l'altro che... partiamo tutti insieme, perché quel posto dove dice, che sta dicendo Gianluca è un po' nascosto, non è un po' interno, capito? Ma sempre a Porto Torre, c'è così, eh? No, rimane a Campanetta, via Campanetta, le pare di sia, così è Gianluca. Sì, c'è quello lì, se no ce n'è un altro più avanti, che rimane sulla strada, che solo un cieco non lo è, e c'è un largo parcheggio, tutto quanto. E di chi è quello di nonne? No, quello è il pub, quello di nonne, questo risulta... Allora, andando verso Alghero, da Porto Torre, andando verso Alghero, risulta a sinistra. Scendendo te lo trovi a destra, invece non te lo trovi a destra. K, capito. Andava. Vabbè, comunque. Allora ci interessa, noi non fare cose, ci interessa stare bene noi e stare in amicizia. Poi se ne buro un tubuglio. No, il tubuglio era abbastanza a mano, di sacro mattessi. Ti ripeto, non vedo parcheggio ora. Sì, è divertente, anche lì. Cosa mi sta entusiasmando, Da voi la strumentazione Vespa, cantava di difficili. Ragazzi, ci divertiamo, se lo facciamo ci divertiamo. Come fai a divertirti? Uno più mancante è satiro. Come fai a non divertirti? Ce n'è uno più mancante e satiro abbonato, come fai a non divertirti? Infatti. Vabbè, dopo di nanti gurubicio goscia a goscia. Ma ci vuole bimbi, rani. A voi avevo fatto la panca. Davvero. No, che da voi, mamma mia, anch'io. Già mai c'ha fatto la rale. Ma io bevo Coca-Cola. Se devo guidare bevo po', non bevo. Cos'è così la birra? E se no si sono mangiati il vino. D'accordo col vino. Il vino? Vabbè. No, nella birra la verità, la birra è più buona con la birra. Se si esagera, per dire, dai. Però come bevanda la copio più con la birra, la birra. Magari mangiando una cosa così, ci sono in compagnia, una tazza di vino in compagnia, in casa vi godo la mia. Si mangia un pizza, si mangia un video, si mangia un pizza, in casa solo è. Antone, io tutto male che vada, già c'ho... faccio la profetica con lo strumento che c'ho io. Così sappiamo se siamo in grado di guidare o no. Questo è il controllo stazionale, pure adesso. No, Bomboli l'ha chiuso. Ah, vabbè, buonanotte Bomboli, se si ne magari sono nascosto. E Grotte? Grotte entra, esce, Grotte ci sei. Antonio Grotte. Dino, avanti. Ah, siamo sentiti allora. Già ti ho sentito. Allora mi sta migliorando. Adesso ti ho sentito. Ah, stavo dicendo. Ma hai detto poco fa che era Antonio. Che cosa? Se ti ho salutato, ho detto poco altro, non ti stavo dicendo fermi. Ho detto sei stonato. Sì, stonato, ho capito. Sono stonato, tu sei una campana. Ma buffonetto. Ah, io pensavo che avessi detto che avevo preso il scemo. Mezzo suonato, io la gente, ti sento, con suonato c'è una campana. No, hai capito male tu. Comunque il problema non c'è. ce n'è, se poi ognuno ce ne sono stazionali, andiamo a dormire a casa di Giampaolo, tutti insieme. Tutti nel letto di Maria. Ah, Giampa, bene ti fa se veniamo tutti a casa tua a dormire. Per me c'è un posto in più, no? Se ti butta fuori, vai tranquillo. Ascolta, ma dove sei? Ah, nell'altra postazione. Mi posso tutti al cappallone a dormire. In mezzo alle pecore, andiamo bene. Chi sa che sta gente ingannata da voi? No, pecore non vi nada, ma sarrone e mela. Ah no, devo sa cosa di non degheso, la sta essere. Oh già. Ma ho capito pure un pecore in chiesa. No, viso piccioli, un bel piccioli. Quindi qualche regalino in testa lo prenderete. Perché è pieno di piccioli sopra la testa. E poi qualche surigo. Raccontate di raggio di questa che doveva munire una vacca. Questo pastore doveva munire una vacca. No, non lo sapevo. Però questo pastore doveva munire una vacca, no? Allora Simone da retto, come se lei era truppiendi, no? Quindi la chi da vacca con l'anca a sinistra e le fa segaggi di cagnara. Ah, bagazza tua, cazzo. Mi hai fatto buttare in carrellata, ma basta costruire. Prende un pezzo di fune, le lega la gamba a sinistra all'inferriata che vera, no? Alla staccionata che c'era lì di fianco. Si rimette a mungere con la gamba destra, boom, le ributta di nuovo il secchio. Cazzo, bagazza tua, va a fanculo a zitta. Prende un pezzo di fune e lega anche la gamba a sinistra, la gamba destra. Ricomincia a mungere tutto quanto, prende con la coda e le va a sgaggiare il cagnara. E la bagazza tua, cazzo, le aveva qualche volta. Prende, non c'aveva più fune, se ne leva la cintura dei pantaloni, le prende, le lega la coda e la prende in alto, no, gliela tiene per tenerla in alto. Neanche fa la porta, prende e calda nei pantaloni e tanto il servo pastore fa, ma stai facendo? Nulla compà, cudendimi la soga, che se ti dico che le romogne non vi crediti. Oh maraccio, poi vabbè, lo sapete la barzelletta di questa signora che è in punto di morte. Ha due figli, anzi uno malato e l'altro sano. Il punto di morte dice a quello sano, ricordati che tuo fratello è malato, i soldi ce li hai, portalo sempre con te perché poi io morirò e sarete soli. Quindi fatevi compagnia perché lui è malato, eccetera, eccetera. Vabbè, la madre muore. Il primo giorno quello sano si sta preparando davanti allo specchio. E quello malato dice, dove stai andando? E quello sano, devo uscire con la mia ragazza. Ricordati cosa ti ha detto mamma. E mi va bene, dai, vieni con me. Se lo porta appresso. E così per 2, 3, 4 giorni, sempre la stessa storia. Un giorno il fratello sano si stava preparando. Quello malato gli fa, dove stai andando? E fratello sano, fammelo mettere dietro, torna subito. Acqua? La più lunga ma l'ho voluta accorciare, dai. Hai fatto bene già. Davvero? Sei fuori, Cosa, Antonè? E c'è fuori, ho detto. Allora te ne racconto un'altra, Antonè. Era il babbo che accompagna lo figliolo ai cura, noi con lui, per vedere come stava andando, no? Prende, bussa alla porta, nelle classi c'era storia e geografia. Bussa lì, bum bum, avanti. Buongiorno professore. Cioè va la bocca un pochettino, ho capito che non riusciva a parlare. Buongiorno professore, mi scusi se parlo così. Ho avuto un piccolo incidente domestico. Come va mio figlio? Chi è lei? Io sono il papà di Giotto, guardi, la volevo mandare a chiamare, ma guardi, suo figlio non sta studiando per niente. se continua così ho bocciato. Ah, così, vabbè, mi scusi, già lo sistemo io quando arrivo a casa. Va più avanti, bussa l'altra porta, lingue straniere, francese e inglese. Bussa lì, nuova questa scena. Avanti. Buongiorno professore, mi scusi se parlo così, ho avuto un piccolo incidente domestico. Però no, mio figlio, è il suo figlio per carità, guardi, lo sto sempre buttando fuori dalla porta, oltre che lo studiare non fa seguire neanche la lezione con Fagnetti. Guardi, è negligenza proprio, non fa. Insomma, un poverino, ragazzo, tutto oramai dispiaciuto, insomma, sconfortato, se ne stava andando all'ultimo perché non faceva niente altro che raccogliere solo cose negative. All'ultima porta, prima di andare via, no, c'era storia dell'arte, disegno e sculture. Va per con un batto 30, per un 31, bussa lì, fa buongiorno professore, detto prego, si accomodi, chi è lei? Io sono il papà 18, mi scusi se parlo così, ho avuto un piccolo incidente domestico, no? C'ho la bocca un pochettino che... Detto lo vedo che... Detto come va suo figlio? Detto come guardi mio figlio... Ecco, guardi, suo figlio è bravissimo. Ma professore, ma sto parlando di mio figlio Giotto. Suo figlio come è veramente proprio, si vede che è un ragazzo che proprio ha le mani d'oro. Ecco, ma professore, ma sta parlando di mio figlio Giotto? Sì, suo figlio, anzi guardi, le dico di più, dovrebbe scrivere un istituto d'arte. Perché è sprecato, perché è proprio mi sembra strano, professore, guardi, per dirne una. Un giorno si è alzato, è andato con questi pennellini, no? Nel vetro della finestra ha disegnato una farfalla. Di quando sembrava vera, tutti i bambini sono andati per andare a toccare. Non mi crede? No, fa di su, professore, già lo credo già. Ma cosa mi ha combinato lui di fa? Non mi ha disegnato un faccioccio nella stufa. Questa era bella, Va via, le labbri cuttate, va via, l'ho preso. Fuori veramente, cazzo, questo me lo devo ricordare. E me ne so bene. E di chi tu si voleva vestire a Battuma? Chi è? Era uno del carnevale, si voleva vestire a Battuma. Sul canale dei Barzelletti. Io, te lo devi raccontare una, là. No, non posso, le mie sono tutte sporcaccioni. Vabbè, me ne racconto una io. Un vecchio in bicicletta si ferma, lascia la bicicletta fuori dal bar, va per un caffè, esce fuori. E non trova più la bicicletta, comincia a mi la pescia mia, papà, la pescia mia, dimmi la ribuce. Fatto sta che nella mente stava passando un funerale, e questo qui che c'era il funerale, sente questo uomo piangendo, papà, la pescia mia. Ecco, lui gli ha detto, vabbè, tanto era vecchia, tanto era... Ma la pompata d'arancia, andava sempre. io lo sapevo un'altra simile così, però quello lì era il concetto. Che appaga. Adesso non me ne ricordo, sennò qua, come sapevo, a gogo. Io c'avevo un amico Luciano che poteva stare due giorni la cosa non si fa del letto. Anche nella cultura dice due bilotti, due bilotti della Litalia si posano in casa di controllo in aereo e commettano. Con i buffi, signore passeggeri, sono pregati di arrecciare le cinture, stiamo per rimetterci al volo. Si altibone si bisogna l'aereo, ma siamo un'altitudine di 1200 piedi, una velocità di crociera di 800 km orari, potete slacciare le cinture, passerà un altro hostess per darvi il nostro comfort. Prende quello lì, leva le cuffie, l'appoggia nella console dell'aereo, non se ne accorge, rimane l'interfono attaccato, no? A se ne va dalla collega, compa, ma perché la hostess nuova vi prende? Buona rete, cazzo, mi la via tutta tanta montagna, però prima né mani non possono aggiungare, vabbè, cazzo, chi le avvisa, come tente su così, molla lo carrozzino delle bevande, no, e come sta curri, come ti arrivi vicino alla cabina di pilotaggio per un vecchiaretto, li porti la caretta, la bazzicaggi le bazzini, e nel poco di prezza, beh, da me, non è te se io andassi a cagare. Antonio. Fammi il tempo di smettere di ridere, dai. Poi io racconto se qualche dubbio. È un problema, io non sono bravo a raccontare barzellette. E raccontaceli come le sei raccontate. Sono di bello che non sono neanche una, non sono bravo in quello, ti giuro, non sono bravo. la verità, proprio il barzellette no. Comunque qua, complimenti, mi sto divertendo oggi, veramente. Via, da un comandante, lo prendiamo pure, vanno, non metto più. Una cosa del genere, sempre dell'aereo, della cosa della... Ah, sì, questa è carina, mi. Via, il contratto atlantico, comincia a navigare, sull'oceano Pacifico e comincia un banco di nebbia. Comincia un banco di nebbia, le pannelle, le basi. Signor Bozzo, comandi, comandà. Detto, com'è la situazione? Banco di nebbia, salga sopra il faro e guardi a vedere in su come si vede. Via, di tua alza lo mozzo e vedi una luce all'orizzonte. Figlia, farà, comanda, comanda. Una luce all'orizzonte che lampeggia. Va bene, le faccio i segnali con il faro che si deve spostare dalla traiettoria, che siamo in situazione di navigazione. Va bene, comandante, adesso salto. Via, Edoatta. Alza sopra le basi dei segnali e chi della la che risponde alle pusce a siedi. Si farà lo mozzo e va a dire, ammira. Questi qua stanno dicendo di spostarci noi. Ha detto no, ma per spostarci noi siamo due giorni, abbiamo diritto di precedenza. Ritrali su, li fai di nuovo i segni e dica che si spostino. Figlia di due mozzo alza sopra, le battitore i segnali e la carapace risponde di pure a piedi, una nave. Cazzo di fatto, ammira, io guardo, non so come dirglielo. Qui continuano a ripetere che ci dobbiamo spostare noi. Guarda, tu sicuramente stai sbagliando qualche cosa, di pure a me. Alza l'ammiraglio sopra e li fa di disegnare. Le basi, sono l'ammiraglio Nelson, comandante del Majestic, da due giorni di navigazione, gli ordino di spostarvi, e dalla Carabacchi, rispondi, Giovannino, l'uguagliano di Romolo, fai come ti vai. Dalla Carabacchi di Gurubaro era. Ora veramente. Via, io non me lo ricordo, la sera sapevo un casino. E qui da lui di batto, ma dello stecca lecca. No, non lo so. Racconta qui Antonelli, sta dello stecca lecca. No, racconta tu che sei più bravo. Ma lo sai? E già lo so, ma tu sei molto più bravo a raccontare, aiù. Ma che non la sai? Aiù, dai, che tu sei molto più bravo, dai, che ce l'hai. Dai, no, io non sono bravo a raccontare, aiù, vai che tu sei più tranquillo. Sì, sono confusato, sono tranquillo. Allora, via, il cubettino di Garasciari, no, a Carnevale si doveva mettere a batto, ma era avvistato una vicemetra di batto. Sempre in questo bel negozio, questa boutique, il negozio di giocattoli. Buongiorno, buongiorno, desidera. Ecco, ascolti, io starei cercando il costume di Batuma. Ah, bene, bene, lei guardi, è capitato proprio nel negozio giusto, noi avevo proprio il vestito ufficiale, proprio quello delle trasmissioni, bello, tutto rifinito, il raso. Ecco, sì, quello lì mi piace. E quanto costa? Ecco, lui la verità costerebbe un po', costa 300 euro. Sì, 300 euro, sì, quello è, mamma, è quello finale. Ah sì, ascolti, sono da senza mantello. Come senza mantello? Senza mantello. Vabbè, guardi, le posso fare 250. Ah, senza maschera, se me lo dà anche senza maschera. Ma scusi, vuole fare Batman lì, senza mantello, senza maschera. No, senza, vabbè, guardi, 200 euro, ma dopo del resto non si può dividere perché il costume è intero, è indivisibile, proprio non si può. Però, ma mi scusi, non per fare queste impertinenze, ma lei quanto vuole spendere? Poi io ho quasi 30 euro, no, 30 euro no, lei non saprebbe nulla da 30 euro, a spendere 30 euro. Guardi, mi è simpatico, quasi qualcosa forse la trovo. Sai come viene il camerino? Si comincia a spogliare, quando è pronto mi richiami. Quindi entra dritto, tira la tendina, si spoglia e va di sono pronto, arriva il commerciante e dà un barattolo da 5 kg di miele, quello caramellato. E le fa, cosa devo fare con questo miele? E tu se lo spalmi tutto il corpo, appena ha finito mi richiami. Vabbè. Entra dentro, quello si richiude, si spalma tutto quanto, boh, ma cosa ti fai? Io mi soccorso e se lo spalma tutto. Appena finito lo richiama il commerciante, ha fatto finito, arrivo, si avvicina al commerciante e dà un paletto di quelli di recinzione di legno, no, quei tronchetti, quelli 10x10, alto un metro, lo vedo piglia e ve lo dà in mano, e tu con 30 euro sei a posto, tu ti sei la prenda e fai, ma cosa ci ti fa un paletto? Tu lo poni in culo e fai un bel cacca lecca. arrivederci. Assumiamo questo con 30 euro. Accontentato. Arrivo. Yeah. Avanti, Torelli. E vai, gara, sono qua. Beh, allora, non ce la dici una? No, meglio di no. Tanto siamo in fascia oraria buona. Sì, ma c'è una bambina, io mi sto girando attorno. Ah, e allora passa, non falta. Beh, dice il vero, ma abbiamo visto che già a mezzanotte, meno 20, appunto, come diceva Gianni, la fascia oraria è solo per adulti, e questo professore mi dice di dargli rete 4, ma come va da ridica, sempre la stessa cosa. E vi ricordo che il programma che sta per andare in onda è consigliato a un pubblico di solo adulti, cazzo mi danno più le minorenne che noi. Ma alle 8.30, alla tele 9.05, perché il film è alle 9.05, il film è consigliato, ma che cazzo di film è? Allora guarda, vi detto che cazzo è Tom e Jerry. E non solo quello, no, e mentre pranzi o ceni, non ti fanno vedere gli assorbenti volanti, non ti basta? Beh, chi fa pubblicità di chi su gozzo a tu per tu, chi su gozzo quando ci golia? Magari dare. Sono studiato da lei, per i massaggi. Sì. Fanno vedere poi gente morta, telegiornale, magari messo il telegiornale, guerre, chiso, guidasso, fanno vedere un po' di cose, massacri. Mentre che c'è niente, da quel ti caggi un gol di cassa, che tu sei abusato di più di niente per lì che poverini, ammazzati, morendo di fame, poveraccio, che non veniva a dirlo. Aiuto. Sbagliano anche facendo l'informazione. L'informazione non dice, cioè, ci sono anche modi e tempi. Tu non puoi fare un telegiornale con una cosa del genere alle 3 a luna. Ciao, spaccato tutto, vi saluta. Fatevela la buona che io vado a farmi un po' di carica. Vabbè, sei in giù. Seconda cena. Dai, devo fare. Ciao Antonio, il Torino così è. Ciao Padre Roger, ciao. Ci sentiamo nel prossimo, ciao Antonio, ciao Di, ciao Antonio. Mi ascolti. Allora vi ci sentiamo, dai, iniziamo a carica. Buon tutto per domani, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao Torelli, buona carica. Ciao. Beh, mi sa che mi saluto anch'io che domani in piena del 6, comunque vi ringrazio della buona serata che mi avete fatto passare, dai. Oggi mi sono divertito, ok, ci sentiamo domani, speriamo che sia bella come oggi, e poi ci organizziamo, dai, grazie di tutto, allora nel caso domani. Kappa, ci sentiamo Antonio, approfitto anche io per chiudere il tavolo, dai, domani vado a lavorare, ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ehi, ma che tu sei chiedendo, Zara? Ciao Antonelli, buonanotte, grazie a te della compagnia. Ci sentiamo domani, dai, così almeno in questi giorni ci aggiorniamo, noi ci conosciamo e ci beviamo un bicchiere di birra assieme, dai, quello che è. Gianni, già ci conosciamo, c'è problema, via dicendo. Ok, ciao anche a te Gianni, dai, con tutto, buon riposo, con tutto per domani. Buonanotte, ciao. Comunque avvertimi in quale posto sei, così ci vediamo lì direttamente a Porto Torres sabato, tanto sarà sabato sera, o sbaglio? Sì, ma mi sembra che dovrebbero essere già in funzione dal venerdì, adesso di concreto non lo so, comunque sabato senz'altro, sabato sicuro 100%, perché male che vada, appunto piazza del sabato mattina, per dopo essere in funzione il sabato sera, la domenica e lunedì. Ma se le cose dovrebbero funzionare meglio, si dovrebbe piazzare già da venerdì, anche venerdì sera, capito? Anche se non lavori, diciamo così, non sei aperto. E dovrebbero essere appunto di venerdì sera per pronto per sabato. Comunque sabato al 100%. Forse tanto sabato fai che tra una cosa e l'altra verso le... partito verso le 5 massimo 6, dai, dovrebbe essere a Porto Torres, sai che anche più bello, quello da lì ci dovrebbe essere meno affluenza, ma non credo proprio. Comunque, dove metti un segnale io già ti becco. Ok, d'accordo Antonelli, di nuovo, allora, buonanotte, cerchiamo domani allora, così ci organizziamo. E io va bene, buonanotte e grazie del divertimento e ci sentiamo domani allora. Grazie a te, ciao Antonello, buonanotte.